fumo un pacco, questi qua li lascio fare, sono pronto a decollare, voglio essere come Farrell, questi qua mi stanno addosso, mi guardano troppo, poi si fanno male, i suoi giocano è sleali, mica ci fanno i regali, sono sceso sulla terra fresco fresco con la mia nuova astronave, mamma quanto mi annoiate, questi rapper tutti uguali, fate tutti grossi grossi in giro, ma cos'hanno come vi chiamate, io non credo che spaccate, credo dite le cazzate, ehi, ehi, voglio il ghiaccio al polso, tutto ad ogni costo, solo marchi addosso, ehi, ehi, 10 collane al collo, tu non parlare troppo, nella Gucci sciroppo, ehi, ehi, è famiglia non una comitiva, se mi trovi con quelli di prima, ritorniamo quando è mattina, yeah, yeah, nuovo disco, nuova la mia vita, prima stavo sopra una panchina, ma mi trovi in primo posto viral, ehi, ehi, tu non mi conosci, fumo e vi vedo mossi, vi lascio manco gli ossi, ush, ehi, baby ne ho presi i colpi, ma siamo ancora in piedi, non siamo ancora morti. Questa parla parla come stressa, parli parli poco mi interessa, yeah. Infiltrati tutti alla tua festa, yeah. Io non cambierò mai, non mai, voglio andare lontano da qua, lontano da qua. Ho risolto i miei guai, ormai, fanculo chi parlava fra, chi parlava fra. Io non cambierò mai, non mai, io non cambierò mai, non mai. Io non cambierò mai, non mai, io non cambierò mai, non mai. Sono a tavola col diavolo, nel telefono soltanto pute che mi chiamano. Oggi pure me la cavo bro, tu mi aspetti ma io scappo mami. Sono in gioco e ti rovino i piani, sull'Apollo c'è un alligatore, c'ho di tutto nello Zen Armani. Bello calmo non alzi le mani, sti ragazzi sanno che cos'è la strada. Voglio money money, solamente money money money money per tutta la squadra. Fumo grammi mentre parli parli, non ti cago siamo già impegnati. La mia bocca spara spara spara, troppo tempo che ho la bocca amara. Siamo avanti finché siamo in gara, mio è morto chiuso in una bara. Sono uscito fuori dalla tana, io ho cresciuto dentro la savana. Oh yeah, ti amo mamma, non mi sono perso per la strada. Quattro alberghi in una settimana, voglio tutto ciò che mi mancava. Oh yeah. Io non cambierò mai, non mai, voglio andare lontano da qua, lontano da qua. Ho risolto i miei guai, ormai, fanculo chi parlava fra, chi parlava fra. Io non cambierò mai, non mai, io non cambierò mai, non mai.